sì. No, io non sono, non volevo offendere nessuno, ma voglio dire. Io a casa mia sono vissuto con mia madre, con mia nonna, con mia zia, e ho quattro figlie femmine e sono felicissimo. Poi c'ho un nipote maschio, lo ucciderei quattro volte al giorno. E quindi lo scherzo, Marco, sei amico mio. È amico mio perché ancora non mi rompi i coglioni, perché è troppo vecchio, ma poi è grande amico mio.